Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Utilizzare gli scarti dell'industria siderurgica e del cemento per immagazzinare anidride carbonica e contemporaneamente produrre materiali di qualità e a basso costo da impiegare in edilizia e nella cantieristica stradale. Buonasera da Maurizio Melis. E quanto sta sperimentando l'Enea nell'ambito del progetto Accelerate, finanziato con 3 milioni e mezzo di euro dall'Unione Europea, progetto che vede impegnati sul fronte italiano, diciamo, anche l'Università di Bologna, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale e il Centro di Ricerca Sottacarbo. Di questo progetto parliamo con Stefano Stendardo, che è ricercatore Enea del Laboratorio di Ingegneria dei Processi e dei Sistemi per l'Energia. Buonasera Stendardo, bentornato a Smart City. Buonasera a lei. Allora, intanto le chiedo di spiegarci l'idea di fondo, qual è? L'idea è abbastanza semplice, si tratta di utilizzare fumi di combustione che vengono fuori dalla produzione ad esempio di cemento o anche per la produzione di energia elettrica e utilizzare questi in un reattore pieno di scorie provenienti da processi industriali come ad esempio le acciaierie o i cementifici. Queste scorie altamente reattive in presenza della CO2 presente nei fumi di combustione reagiscono producendo un materiale abbastanza inerte che può essere riutilizzato nuovamente in processi produttivi o per la sostituzione ad esempio di prodotti minerali convenzionali, ad esempio nella produzione del calcestruzzo, ad esempio nella sostituzione della ghiaia o della sabbia che comunque viene utilizzata nella fabbricazione del calcestruzzo stesso. Quindi questo materiale che voi producete è di fatto il carbonato di calcio, che poi è il calcare, insomma, non è una cosa così misteriosa, no? È lo stesso di cui sono fatte le montagne. Ci sono appunto montagne piene di calcare. Anzi, si va a prenderlo lì, spesso, smontandole, così le lasciamo in pace. È quella di lasciare le risorse naturali dove stanno e riutilizzare gli scarti provenienti dalle industrie con la CO2 e con l'ottica di abbattere quindi le emissioni della CO2 e dall'altro di ridurre gli scarti da mandare in discarica. Quindi da una parte riduciamo le emissioni di carbonio in atmosfera, dall'altra riduciamo gli scarti provenienti da industrie quali appunto acciaieria e cementifici. E in più riduciamo anche il prelievo di materia prima dall'ambiente, insomma, diciamo che in questo caso con una fava di piccioni se ne prendono tre. Allora, senta, potenziale di stoccaggio, cioè quanta CO2 realisticamente si riesce a evitare di emettere in atmosfera utilizzando questo approccio? Allora, e quali sono i settori coinvolti? Lei ce li ha già un po' citati, no? Cementerie, acciaierie, diceva la produzione di energia elettrica. Ovviamente dipende molto dal tipo di tecnologia che uno utilizza e dalla temperatura in gioco. Se parliamo di cattura della CO2 attraverso fumi di combustione a temperatura non superiore ai 100-150 gradi, il potenziale di stoccaggio per 100 grammi di scorie all'incirca sul 5-6%, si arriva fino al 10% se ottimizzato in presenza di vapor d'acqua. Questa percentuale sale fino al circa 70-80% quando le scorie vengono fatte reagire fino alla temperatura di 600-650 gradi. Si parla infatti nel primo caso di una carbonazione che in qualche modo imita quello che succede in natura quando comunque la CO2 viene assorbita dalle scorie lasciate all'aperto, a maturare si dice, no? Mentre nell'altro caso le temperature in gioco si attestano sul 600-650 gradi. La cosa positiva è che ad alta temperatura, se decarbonizziamo un gas che esce fuori ad esempio da un altoforno in cui è presente monossido di carbonio, CO2 oltre che idrogeno, sempre in presenza di vapor d'acqua e in presenza delle scorie, è in grado di concentrare da un lato la CO2 che abbiamo catturato, ma dall'altro di separare anche l'idrogeno, quindi in qualche modo produciamo un gas ad alto contenuto di a basso contenuto di carbonio e ad alto contenuto di idrogeno. Da una parte alto contenuto, dall'altra ad alto contenuto di idrogeno, che può essere riutilizzato come sostituto del carbon coke, dei minerali ferriferi nell'alto forno, oppure nella produzione di energia elettrica a basse emissioni di CO2. Senta, ecco, tutto questo non è solo teoria, ma è qualcosa che state sperimentando in un impianto pilota che si chiama Zecomix, è corretto? Esatto, Zecomix è un'infrastruttura di ricerca europea che gestiamo qui in Casaccio. L'obiettivo è quello in qualche modo di emulare quello che succede in un impianto industriale. Senta, siete vicini al trasferimento tecnologico all'industria? C'è ancora molto lavoro da fare? Allora, guardi, consideri che da una scala da 1 a 9, dove 1 è il laboratorio e 9 è l'uso delle tecnologie nei settori industriali, quindi uso di tecnologie mature, la nostra si attesta sul 7, quindi siamo vicini a studiare delle tecnologie che possono essere trasferite nel settore industriale. Grazie Stefano Stendardo. Grazie a lei. E allora, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti voi.